Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che è Tante cose insieme, di Franco Cesaro e Mauro Bini, Racconti di fabbrica. Buonasera, dottor Cesaro. Buonasera, buonasera a voi. E buonasera, dottor Bini. Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori. Allora, un libro che dicevo è Tante cose, perché lo dice il titolo, è un racconto, racconti di fabbrica, racconti del lavoro, narrazioni attorno al lavoro quotidiano, ma è anche un libro di storia, un libro della storia industriale di questi ultimi 50 anni d'Italia, ed è anche un libro che cerca di interpretare sotto il profilo della psicologia del lavoro quella che è la realtà dell'economia, la realtà soprattutto della produzione, come è cambiata in questi anni. E allora iniziamo da dire che come vi siete divisi il lavoro. Dottor Cesaro, lei ha scritto un po' l'introduzione e i commenti a questi racconti? Sì, io ho voluto mettere gli ascoltatori in grado, i lettori in questo caso, in grado di comprendere con animo corretto queste bellissime narrazioni di Mauro Bini. Ecco, ricordiamo, Franco Cesaro è titolare di uno studio di consulenza aziendale, è docente presso l'Università degli Studi di Milano, quindi ha un approccio molto pratico, pragmatico alla realtà dell'impresa. Sì, sì, io vivo nelle imprese, vivo nel mercato, vivo con i piccoli imprenditori soprattutto, e quindi mi piace raccontare delle esperienze più che delle teorie, anche se bisogna spiegare il perché delle cose alle persone. Ecco, Mauro Bini, anche lui consulente di organizzazione aziendale e sviluppo delle risorse umane, ha scritto questi racconti. Come è nata l'idea di questi racconti, dottor Bini? Ma le devo dire che l'idea di questi racconti è nata dal fatto che passando gli anni mi sono sentito dentro tante storie, tanti ambienti di lavoro che ho visto, e la voglia di raccontare soprattutto come l'ambiente di lavoro, che è una situazione di necessità in cui la gente è costretta a vivere per 8, 9, 10 ore al giorno, sia un ambiente dove al di là dell'organizzazione, della prestazione professionale, in realtà scorrono sentimenti, emozioni, atteggiamenti dell'uno verso l'altro che incidono sulla vita stessa della persona, sia come singoli sia come collettività. Ecco. E a questo punto ho sentito il bisogno di far emergere questa quotidianità, no? Al di là questo sfondo non visitato, insomma, della fabbrica, del lavoro, della produzione, affascinato soprattutto da piccole storie individuali nelle quali così mi sembravano potessero emergere le intersezioni fra il lavoro in sé, l'ambiente di lavoro e la storia delle persone. Ecco, in questi racconti c'è anche appunto una logica storica che nasce un po' per raccontare come è cambiata la fabbrica in questi ultimi 50 anni, dottor Bini. Sì, questo è un po', come si può dire, il nostro progetto di lavoro fatto con Franco. Fra i vari racconti che ho scritto abbiamo colto alcuni momenti della storia della vita industriale italiana, dopoguerra, le grandi industrie, l'organizzazione tayloristica, la crisi del taylorismo e, voglio dire, l'esplosione della concorrenza internazionale alla fine degli anni 90, perché permettessero di leggere un excursus, non dico un'involuzione, perché ognuno di questi momenti ha le sue caratteristiche che sono organizzativamente imprescindibili, e a Franco di permettere di contrappuntare appunto in chiave storica e anche di maturazione della conoscenza di psicologia del lavoro questi diversi momenti. Ecco, guardando proprio dall'inizio alla fine questi ultimi 50 anni, dottor Cesaro, c'è stata una vera e propria rivoluzione all'interno del mondo del lavoro. Sì, è stata una rivoluzione soprattutto, diciamo, culturale. Secondo me, proprio con questo testo, questo libro, noi abbiamo voluto anche testimoniare che in realtà oggi il lavoro non è solo mettersi davanti al computer da casa pensando di creare valore dai giochi virtuali. Per noi il lavoro vuol dire ancora oggi che centinaia di migliaia di persone tutte le mattine vanno a timbrare un cartellino per creare valore, e questo è una questione sociale soprattutto. Ricordo il primo articolo della nostra Costituzione: noi abbiamo una Repubblica teoricamente fondata sul lavoro, e quindi duro, lavoro che crea imprenditori e lavoratori assieme, una prospettiva e secondo me anche una identità. È in questo che io ho trovato grande soddisfazione nel leggere i racconti di Mauro, che rappresentano una realtà vera, quella che racconta della crescita di persone, della loro dignità, insomma. Quindi per me è stata una bella soddisfazione anche per vedere quanto coincidono le evoluzioni storiche e sociali proprio con il lavoro e, mi permetto di dire, con i lavoratori, perché si parla tanto di lavoro, ma secondo me si è persa un po' l'abitudine di parlare dei lavoratori. Ecco, questi racconti portano proprio in primo piano il fatto che il lavoro, l'economia in fondo non è un'entità astratta, è qualcosa di concreto fondata sulle persone, sull'impegno delle persone, sul confronto, sulle relazioni tra le persone e sulla capacità poi anche di movimentare, di crescere, di in un certo senso interpretare anche i movimenti della realtà. Ecco, in questo senso, professor Cesaro, forse parlare ancora adesso di fabbrica, la fabbrica attuale è molto diversa da quella di 50 anni fa. Sì, è molto diversa se pensiamo che la fabbrica di 50 anni fa era collegata direttamente al territorio e alla società civile, forse circoscritta in termini geografici. Oggi è certamente una realtà che è arricchita, se vogliamo, di culture diverse. Mi spiego meglio, molti imprenditori che io conosco stanno facendo sempre più la scelta di una internazionalizzazione delle loro fabbriche, più certo, di un decentramento delle loro fabbriche, importando opportunità e interessi soprattutto culturali che arricchiscono anche i lavoratori stessi, se si riesce a creare un dialogo, un rapporto molto diretto con loro. Ecco, in questa prospettiva, dottor Bini, i suoi racconti appunto comprendono questo periodo, hanno un po' come sfondo l'Olivetti storica, l'Olivetti di Ivrea, è così? Sì, diciamo l'Olivetti, la grande Olivetti elettromeccanica, quella prima, diciamo così, della fase dell'elettronica, l'Olivetti degli anni 60 e metà 70, insomma, la quale, così, nei confronti della quale ho un grosso debito di riconoscenza identitario, insomma, no? Sì, ma si capisce leggendo questi racconti, infatti. E qui c'è anche un po' di nostalgia? No, direi nostalgia no. Nostalgia no, anche perché è stato un momento, come ripeto, io più che altro ho visto evolversi quella che possiamo chiamare la competenza professionale in questi 40 anni di lavoro, e siamo passati da una competenza professionale, come si può dire, che era centrata sul saper fare, ad una competenza professionale centrata sul saper cogliere le opportunità, insomma. Che ha significato il passaggio da competenze molto costruite e durature nel tempo a competenze che oggi necessariamente sono volatili, perché cambiano le tecnologie, cambiano i prodotti, cambiano i mercati con una rapidità veramente incredibili, e sono utili qui adesso. È un po' una specie di maledizione quella della professionalità oggi, perché non si può più costruire a lungo termine, e in questo senso nell'evoluzione dei miei racconti diciamo che i volti dei personaggi si fanno progressivamente più anonimi, no? Perché c'è, direi, un contrappunto fra solidità della competenza professionale e visibilità delle persone. Certo, c'è anche una logica all'interno delle imprese. Lei a un certo punto in uno di quei racconti dice appunto che la produzione di grande serie è uno scenario ineludibile di centinaia di persone legate come gli anelli di una catena, eppure estranei l'uno all'altro. Sì, sì, sì. Chi avesse visto, quando noi vediamo il lavoro di grande serie, almeno per quello che ho visto io, dove le fasi di lavoro delle singole persone possono variare dai 45 secondi ai 4 minuti e sono tutte legate uno all'altro, eppure la continuità di questo legame sfugge completamente di mano ai singoli operatori. La continuità è data dal disegno organizzativo, fatta da altri, e la competenza professionale è qualcosa che è legata all'esistenza del prodotto. Finito, certo, quel prodotto, la competenza professionale di chi lo montava, di chi lo faceva, in realtà sparisce con la fine del prodotto. Ecco, abbiamo ancora 30 secondi. Io vorrei, mi scuso Torbini, un'ultima risposta dal dottor Cesaro, proprio guardando a questa realtà, che ovviamente è importante conoscere anche per cercare di cambiarla e di rendere sempre più vicina alla realtà delle persone. È un processo che è comunque in corso, professor Cesaro. Sì, secondo me poi c'è da considerare l'approccio culturale al lavoro e a questa realtà di lavoro, e secondo me la variabile importante è il tempo, la cultura del tempo. Oggi io credo che bisogna recuperare la visione di lungo periodo, che è innanzitutto una visione dell'imprenditore, ma anche del lavoratore che vuole costruire valore per se stesso e competenze, perché siamo purtroppo troppo concentrati sul risultato di breve periodo, che va bene per i manager, però non va bene, secondo me, per gli imprenditori, per i lavoratori stessi. Quindi bisogna guardare lontano, dandosi del tempo e non cercando sempre scorciatoie. Non cercare il breve termine, guardare in prospettiva, cercare di avere anche dei progetti, delle visioni e della capacità appunto di realizzare attorno a queste visioni anche la valorizzazione di ogni competenza delle persone. Io ringrazio il dottor Mauro Bini e il dottor Franco Cesaro, che sono gli autori di Racconti di Fabbrica, narrazioni attorno al lavoro quotidiano. Sono 6 racconti accompagnati da analisi, spiegazioni, contestualizzazione del senso storico di questi racconti, in cui si esprime appunto la realtà del lavoro, cercando di valorizzare al massimo la persona che lavora. Ripeto, Franco Cesaro e Mauro Bini, Racconti di Fabbrica, edito da Guerini e Associati, 190 pagine, 16,50 euro. Grazie ai due autori, grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento è per sabato prossimo.